get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, benvenute alla nostra 184esima trasmissione di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito sempre del martedì femminista e lesbico autogestito. Come sapete potete ascoltarci in radio sugli 87.900 MHz Radio Onda Rossa, oppure vi potete collegare sul nostro sito, che ve lo dico subito, è www.clrbp.it. Cliccate sulla radio, cliccate sull'icona in diretta e sarete splendidamente collegate con noi. Questa sera siamo io e Rosina, come al solito, buonasera. Buonasera. E come sapete potete contattarci durante quest'ora, siamo un po' in ritardo, sono le 9 quasi a 10, potete però contattarci allo 06 49 17 50 qui in radio, oppure potete scriverci un'email al nostro indirizzo che è contatti@clrbp.it, oppure come già sapete potete mandarci dei trillini o degli sms al 338 41 46 682. Stasera puntata ricchissima, dobbiamo andare proprio di corsa. Molto ricca, stasera vi parleremo un po' del convegno che si è tenuto a Bologna, il convegno su Audre Lorde, l'attualità del pensiero di Audre Lorde, il valore della differenza, organizzato appunto dalle compagne di Fuori Campo, e abbiamo pensato di farvi sentire, senza ammorbarvi noi direttamente, di farvi sentire alcune interviste che abbiamo fatto ad alcune delle relatrici, che sono, ve le preannuncio, Jennifer Abbott, una filmmaker importante americana che ha appunto fatto un video su Audre Lorde, Jacqueline Julian, che è la presidente di Espace, di Lesbian Espace Bagdam, sì. E Bagdam Space, vabbè, okay. Io l'ho detto in francese, sì. Poi ci sarà Maria Grazia Pecoraro, che si è occupata della traduzione di alcune poesie di Audre Lorde, e me ne manca una, in questo momento mi sfugge, Jennifer Abbott, già abbiamo detto, Julian, e naturalmente Luki, l'organizzatrice del gruppo Fuori Campo. Ok, partiamo prima con un pezzo musicale, Miriam Makeba con Homeland, e poi partiremo con la prima intervista, vi diciamo di chi è. accennato al convegno L'attualità del pensiero di Audre Lorde. Si è trattato di un convegno, questo tenuto sia a Bologna, di un convegno internazionale che ha visto la presenza di molte attiviste lesbiche, sia europee che americane, bianche e nere. È stato un convegno piuttosto interessante, anche molto emozionante, sì. E diciamo ha contribuito in qualche modo a mettere in luce la figura di Audre Lorde, che purtroppo non è molto conosciuta soprattutto in Italia, perché pochissimi dei suoi lavori sono stati tradotti. E poche poesie e solo un paio di saggi, l'uso dell'erotico che vi abbiamo già letto in trasmissione un paio di trasmissioni fa e che però speriamo di poter presto insomma darvi comunicazione rispetto a questi lavori, perché le organizzatrici del convegno, le Fuoricampo, hanno già preso contatti con diverse donne che si occupano di traduzione e quindi speriamo presto, oltre agli atti del convegno, sarà pubblicato anche una parte dell'opera di Audre Lorde. Naturalmente per presto intendo insomma, come dire, i tempi della editoria, della traduzione, quindi non sarà prestissimo, però abbiamo già questo spiraglio, questa sì. Possibilità, e sarà sicuramente una cosa molto interessante quando questo materiale sarà fruibile per tutte. Dunque, a questo convegno hanno partecipato, dicevamo, diverse donne. Vi diciamo chi sono, poi sentiremo anche le interviste ad alcune di loro. E è stata presente Angela Bowen con un lavoro su Audre Lorde, Tre momenti, tre conflitti, le complicate relazioni di Lorde all'interno dei tre movimenti di liberazione americane. Vi ricordiamo che Angela Bowen è stata una delle allieve di Audre Lorde. Poi Jennifer Abbott, che ha appunto presentato un documentario che si intitolava Documentare la passione, il making of del video di Audre Lorde, che appunto è un film che è stato prodotto su Audre Lorde, sulla figura di Audre Lorde e sulla conferenza che le è stata dedicata, che si chiamava I'm Your Sister. Poi c'è stata per le italiane Liana Borghi, che ha messo a confronto il lavoro di Audre Lorde e quello di Adrian Rich, estraneità e affinità di un'amicizia politica. Simonetta Spinelli con l'attualità delle appartenenze conflittuali, che tra l'altro ieri Simonetta ha tenuto una lezione presso l'Udi molto interessante, ne terrà anche una al Buon sì. Pastore il 9 giugno, occupandosi nello specifico dell'aspetto delle migrazioni in Italia. E la tedesca Dagmar Schulz da Berlino con un intervento su Audre Lorde e le sue lotte e le sue visioni. Ricordiamo che Dagmar Schulz, oltre ad essere un'amica personale di Audre, è stata la sua editrice tedesca e tra l'altro è stata anche, diciamo, la biografa fotografica, se possiamo dire così, ha fotografato Audre, e c'era tra l'altro una bellissima mostra fotografica su Audre, proprio di lei. E Margherita Giacobino ha parlato del potere della madre e del linguaggio in Zami, che era la biomitografia di Audre Lorde. E Jacqueline Julien, la presidente di Bagdam Espace Lesbian, che ha portato il suo intervento sul cancro del seno, cancro di genere, dialogando con la Audre Lorde dei Cancer Journals. E Maria Grazia Pecoraro, leggendo Lorde, frammenti di una eredità poetica, tradurre senza tradire per rompere il silenzio. Appunto, Maria Grazia Pecoraro ha tradotto diverse poesie di Audre Lorde e le ha lette al convegno, sostenuta anche da Angela Bowen. Mm-hmm. Quindi queste le relatrici del convegno. Adesso io direi che possiamo cominciare. Sì. Diciamo giusto poche parole riguardo Audre Lorde, per chi non lo sapesse. Audre Lorde si definiva così: sono nera, lesbica, femminista, guerriera, poeta, madre. Nacque il 18 febbraio del 1934 nel quartiere di Harlem, New York, da genitori originari di Karaku, nei Caraibi. Per mantenersi, continuando a studiare, ha fatto l'infermiera, l'operaia, l'impiegata e la bibliotecaria. Ha poi insegnato inglese all'Hunter College di New York, viaggiando in tutto il mondo per tenere conferenze e seminari. Ha pubblicato 11 raccolte di poesie, pensate, ne ha scritte più di 300, tra cui The Black Unicorn del 78 e Our Dead Behind Us, e 6 libri in prosa, dal romanzo Zami, di cui vi parlava Rosina, e saggi di Sister Outsider. Il convegno I'm Your Sister le ha reso nel 90 un omaggio internazionale. Dopo una lunga lotta contro il cancro, testimoniata anch'essa nel bellissimo The Cancer Journals, è morta nel 1992 a novembre a Saint Croix, nelle Isole Vergini, dove viveva da 7 anni con la sua amante Gloria Joseph. E allora io direi di partire appunto con la prima intervista, che quella che abbiamo fatto, perché dovete sapere che le inviate speciali eravamo proprio io e Rosina, e ci siamo divertite un sacco oltre a emozionarci. Siamo riuscite ad intervistare 4 delle ospiti, e in particolare la prima con cui partiamo è proprio l'organizzatrice Luchi Massa del gruppo Fuoricampo di Bologna. Allora, siamo qui io e Rosina a Bologna, nella 3 giorni del convegno Il valore della differenza, l'attualità del pensiero di Audre Lorde, e siamo in compagnia dell'organizzatrice, pensate, di questo convegno fantastico organizzato da Fuoricampo, Luchi Massa. Allora, Luchi, com'è nata l'idea di questo convegno? Allora, l'idea di questo convegno è nata innanzitutto perché amiamo Audre Lorde e vogliamo far conoscere e diffondere un po' di più il pensiero anche in Italia, dove i suoi testi non sono stati tradotti, quindi non pubblicati. Sì. Una delle ambizioni di Fuoricampo e di questo convegno appunto è quello di, oltre a tradurre i testi che abbiamo fatto, è anche quello di cercare di riuscire a pubblicarli, ed è uno degli interessi. Ma la cosa ancora più interessante è quella di essere riuscita a portare qui in questi 2 giorni tantissime donne interessate, sia a chi non la conosceva, mm-hmm. e quindi vuol dire che il messaggio è arrivato, cioè quello della presentazione, no? Chi era Audre Lorde, che cosa faceva, eccetera, e quindi la curiosità, e sia a chi già la conosceva, ma non la conosceva abbastanza bene, proprio perché magari non è un anglofono o comunque, insomma. E tra le ospiti ce ne sono alcune che hanno fatto degli interventi, secondo noi, bellissimi. Chi sei riuscita a portare qui a Bologna? Allora, intanto appunto è un convegno internazionale, perché? Perché abbiamo con noi Jennifer Abbott e Angela Bowen. Angela Bowen è stata una delle allievi e anche protagonista del film I Am Your Sister, cioè della conferenza, scusate, di Boston, una delle organizzatrici della conferenza di Boston del 90, I Am Your Sister, che è stato un omaggio a Audre Lorde, mm-hmm. ma all'interno di quella conferenza sono venute fuori tantissime tematiche che su cui Audre lavorava, che appunto è il classismo, sessismo, omofobia e razzismo. Racchiude un po' tutti. Da quella conferenza di Boston è nato un film che poi abbiamo proiettato a Lumière, e Angela ci ha raccontato come è nato questo film, eccetera. Poi abbiamo avuto Jennifer Abbott, l'ho detto prima, abbiamo avuto Jacqueline Julien, che ci ha parlato di un tema molto interessante, perché purtroppo, per chi non conosce Audre Lorde, lei è morta nel 92 di cancro. Benissimo. Però essendo lei una guerriera, affrontando tutta la vita e tutta la sua vita e tutta la sua prosa, tutta la sua poesia, tutto il suo scritto in maniera positiva e propositiva, anche affrontando il cancro ha voluto elaborarci sopra e ha scritto queste bellissime diari del cancro. Anche queste ancora non disponibili, no, questo tradotti. Non è stato tradotto, e Jacqueline ci ha fatto una bellissima relazione. Infatti usciamo da questo intervento toccante, esatto, tra l'altro. Perché lei ha toccato una tematica importante, cioè che il cancro al seno è un cancro di genere, cioè è l'unico cancro che non viene, che viene affrontato in quanto tale, quindi curato il più possibile, si sono fatti passi da giganti, ma viene ancora definito un cancro estetico, cioè non c'è un altro cancro in cui si dà tanta importanza la protesi al seno, cioè la donna con un seno in meno ha qualcosa in meno, sì. E quindi si riparla di questa cosa. L'altra affronteremo nel senso che fra un po' lo faremo, per questo, con Maria Grazia Pecoraro, il tema importantissimo della poesia, perché Audre Lorde prima di tutto era una poeta. Abbiamo parlato con Margherita Giacobino di un libro importantissimo suo, che è Zami, cioè una biomitografia, mm-hmm. cioè che sarebbe una biografia costruita anche nel mito. Nel mito, sì. Ieri c'è stata, oltre a Angela Bone, come dicevo prima, Liana Borghi, che ha parlato di estranità e affinità di un'amicizia politica, cioè Audre Lorde e Adrienne Rich, che sono contemporanee, tutte e due hanno lavorato su temi molto importanti come il razzismo, il sessismo, ma c'era anche delle affinità, cioè Adrienne Rich, poeta, scrittrice bianca ebrea, Audre Lorde, poeta, scrittrice nera, lesbica, poi come amava definirsi lei, guerriera, madre un po' tutto, femminista, sì, eccetera. Sta andando benissimo, tra l'altro. Volevo dire che abbiamo avuto Simonetta Spinelli, che è molto importante, che ha parlato dell'attualità di appartenenze conflittuali, cioè l'attualità oggi di queste appartenenze conflittuali che ci sono state anche nel periodo di Audre Lorde, perché Audre Lorde ha fatto parte dei tre, ha fatto parte in maniera trasversale, diciamo, cioè c'era dentro ma si considerava un outsider, dei tre movimenti fondamentali dell'America del Nord, cioè il movimento nero, il movimento delle donne e il movimento di liberazione lesbica e gay, cioè tutti i tre movimenti di liberazione. Dagmar Schultz, in ultimo volevo dirvi, Dagmar Schultz, che ha parlato delle lotte e delle visioni di Audre Lorde, è l'editrice più la traduttrice tedesca di tutti i testi di Audre Lorde, in tedesco, in Germania, perché Audre Lorde dagli anni 80 fino al 92, quando è morta, ha fatto tantissime conferenze in Germania, al punto che la vita di moltissime donne e uomini tedesche è cambiata, perché si sono dovute mettere in confronto con le donne e gli uomini tedeschi neri. Quindi insomma, è stata una cosa molto interessante. Non ho dimenticato nessuno, vero? No, credo Penso di no. Proprio di no. E l'atmosfera che si respira è bellissima, secondo me è bellissima, uno perché bella. Siamo in un bellissimo ex convento, quindi un chiostro. È scelto un posto incantevole. Bellissimo, e le poi donne sono contentissime, tante. Tante, e molto. Vi dà energia a continuare? Io direi di sì. Tra adesso, le prossime iniziative? Allora, intanto dopo il convegno vogliamo pubblicare gli atti, anzi volevo dire che chi poi è interessata va sul sito di Fuoricampo, c'è un'email e ci può contattare, noi metteremo comunque di tenerlo aggiornato, che è www.fuoricampo.net. L'altra iniziativa che faremo, porteremo Dorothy Ellison in Italia, perché il Dito e la Luna adesso ha tradotto Trash, e questo sarà l'1 di giugno, e sarà insieme a tanti altri gruppi bolognesi, come la Luo, Antagonismo Gay, la Cilesica di Bologna, il MIT, faremo tutti insieme questo incontro, mentre a fine giugno abbiamo la presentazione del libro di Gabriella Romano. Ah, e quindi l'ultimo libro della Gabriella Romano. E poi non lo so, poi andremo al Pride a sfilare con il nostro colore arancione e poi mi sa che andiamo in vacanza. Beh, direi di sì, no, lui è infaticabile come la conosciamo da anni. Sì, ma dove trovi la forza di continuare a insistere? Ma perché mi diverto? Questa è una domanda più personale, perché ammiro molto. Direi che quello mi diverto che fai. E mi piace. Sono una ricercatrice delle passioni, degli interessi, delle conoscenze. Altrimenti mi annoierei e la noia. E tra l'altro, tra le tante cose che fai, no? Non le sto a elencare, sei anche regista. Il nuovo cortometraggio lo devo fare assolutamente entro fine giugno. Ok. Mi dimenticavo questo piccolo particolare che oggi dovrei fare. Ancora non si potrà riposare. Grazie, non l'ho ricordato. Le vacanze sono rimandate naturalmente a settembre. Ti aspettiamo a Roma poi quando hai fatto il giro di festival, quelli importanti. Sì, se ti va di presentarlo a Roma. Ma sì, volentieri, certamente. Grazie mille. Poi magari quando escono gli atti di Audre Lorde magari possiamo quello assolutamente. Perfetto, va bene. Bene, grazie, grazie a voi. A voi. E buon tutto. A tutte le fuoricampo. Grazie. Ciao. He has the red feet, he's stuck in his shoes, lipstick and rouge on his face. He has his hair piled high, got a red umbrella, and carries his head in the sky. And I said, oh, and your warmth sets like the sun. He has a little baby brother, a big fat mama. His sister asked for that on the street. He doesn't feel insecure. In fact, he knows for sure he can please. Said he's out there right now, running with the devil, strung down the alleyways with a nervous young hopeful at his heel. And all his satisfaction will drive him away. And I said, oh, oh, oh. Correndo, correndo, come diceva una famosa canzone. Allora, vi ricordiamo che siete sempre sintonizzate su Radio Onda Rossa, è la nostra trasmissione del coordinamento lesbiche romane. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Vi ricordiamo che se volete intervenire qui in radio allo 06 49 17 50, io e Rosina saremo felicissime. Oppure potete scriverci un sms al 338 41 46 682, siamo altrettanto felici. Oh, continuando qui, adesso l'intervista che vi manderemo è quella di Jacqueline Julian, di cui vi ha parlato prima Rosina, che ha scritto, che ha fatto un intervento facendo un parallelismo fra quella che è stata il suo cancro al seno e quella che invece ha colpito la stessa malattia che ha colpito anche Audre Lorde. Sentiamo l'intervista, poi magari ci dite che ne pensate. Il valore della differenza, l'attualità del pensiero di Audre Lorde, un convegno internazionale di studi sul pensiero di Audre Lorde organizzato dal gruppo separatista Fuori Campo di Bologna, e abbiamo ospite Jacqueline Julien, pronunciato bene? Il mio francese è pessimo. Jacqueline Julien, la presidente di Bagdam Espace Lesbienne, che è una famosa associazione separatista che è stata creata a Tolosa nel 1989, ma allora si chiamava Bagdam Café. E Jacqueline è una importante editorialista e novellista, ha scritto una montagna di articoli e di interessanti lavori sul movimento delle donne, sul movimento lesbico. E, oggi vogliamo intervistare Jacqueline per organizzare un piccolo parallelo fra l'esperienza vissuta da Audre Lorde e descritta nei giornali del cancro, nei diari del cancro, e la sua esperienza personale. Jacqueline ha condiviso purtroppo una esperienza difficile legata appunto alla malattia del cancro al seno insieme a Audre Lorde. Leggo soltanto una piccola introduzione di Audre Lorde ai Cancer Journals, che diceva esattamente così: rifiuto che la mia rabbia, il mio dolore e la mia paura del cancro vengano fossilizzate in un nuovo silenzio, al punto di privarmi delle forze che possono sorgere dall'esperienza, dopo che questa esperienza è stata ammessa e analizzata. Sì, dunque, Audre è la mia sorella in cancro, come chiamo le amiche, e sono numerose anche le sconosciute, viste che a parte quelle che sopravvivono, bisogna ricordare che siamo più di un milione all'anno a morire. Allora, quelle che vivono sono qui 10 anni dopo. È vero che ho vissuto questa cosa, cioè l'ho vissuta in piedi, invece è vero che le donne le vedono piuttosto orizzontali, decisamente orizzontali, in molti casi anche metaforici, e è vero che in quanto a lesbica mi sono insorta contro l'obbligo, e l'ho scrissi in un articolo ormai abbastanza conosciuto sull'ingiunzione della protesi, con il perché e per chi fare mettere assolutamente questa protesi al seno mancante. Si tratta dunque di mastectomia che ho subito, come l'ha subito Audre. Quando ebbi ad affrontare questa esperienza non conoscevo ancora i Cancer Journals, ma è vero che il mio background mentale era pronto ad operare la stessa strategia di pensiero, direi, nel rifiuto, non direi istintivo, non c'è niente a che fare con l'istinto, il pensiero non è l'istinto al quale è sempre rimandato una donna, una sessuata donna, una genderizzata donna, come dico. E io ho ragionato in quanto lesbica, ho detto: ma a che cosa serve, che cosa mi vuole fare essere questo seno mancante, e quindi questa volontà del medico di farmi subito un seno al posto del manco, un di più al posto del di meno. E il mio no alla protesi era assolutamente pronto quando Rina Nissin, che è la nostra editrice non francese ma svizzera, comunque francofoni, dell'edizione, della traduzione di Audrey in Francia, in francese, scusa, mi mandò in fotocopia il Cancer Journal, il primo, quello dell'80, che trattava del cancro del seno. E fu come illuminazione retro, cioè come on dit, retard, cioè io avevo già deciso, però vidi che avevo assolutamente capito quello che aveva capito Audrey, e mi aiutò moltissimo, perché sa aiuta sempre di avere quasi la verifica che pensi giusto. E pensare giusto, e mentre ti parlo sto guardando le magnifiche foto di Dagmar Schultz in questa stanza di, della mostra, del convegno, e mi fa, insomma, è molto commovente vedere che Audrey mi sta guardando ridendo. È vero che dopo ho potuto concettualizzare questo rifiuto, e l'ho fatto oggi, l'ho fatto in questo articolo, adesso non so, forse ne volete, leggete, non lo so, non posso andare oltre che dire che la protesi del seno è simboleggia veramente uno dei mezzi dell'oppressione nei confronti delle donne, e poi quando siamo lesbiche ci rimandano per forza al sesso donna, anche se non abbiamo certo né una vita eterosessuale, né quella di singola, cioè perché per forza siamo legate a tutto il movimento, quindi singola non vuole dire niente. E niente, io potrei parlare più a lungo di questa scelta, ma fatto sta che Audrey come io abbiamo rifiutato questa metafora dell'oppressione dominante sessista. Nel tuo bellissimo, se posso dirlo, articolo che si intitola Protesi del seno dopo un cancro, una ingiunzione per chi, perché tra l'altro devo dire un articolo che un lavoro che mi ha tra l'altro commossa, soprattutto nel momento in cui tu oggi hai salutato una compagna che purtroppo attraversa un'esperienza simile alla tua e simile a quella di Audrey, e quindi questo ci fa capire quanto effettivamente questo male, questa malattia sia diffusa. Devo dire, mi sono una pandemia, esattamente. Pandemia. Abbiamo detto pandemia va benissimo. Abbiamo detto 1 milione di donne malate e muoiono di cancro al seno. E in questo articolo bello, per me veramente molto quasi sconvolgente a tratti, devo dire, tu hai parlato di genderizzazione, che è un po' diciamo il filo rosso che lega quello che viene definito generalmente la biologia naturale delle donne, il destino biologico delle donne, quindi la menomazione, come si dice, quindi avere una parte di sé staccata dal proprio corpo, in qualche misura, secondo il sentire comune, dimezza l'essere donna, quella che viene generalmente nominata la femminilità. Prima di tutto il destino biologico, come ho detto oggi, ha molti sinonimi che sarebbero stupro di guerra. Oddio, questo è il mio telefonino, non sono uccelli nel bosco, però non posso rispondere. Senti, volevo dire che i vari sinonimi di destino biologico, cosiddetto, è stupro in casa, stupro cosiddetto anche coniugale, violenza in casa, insomma tutto quello che sappiamo, non faccio la lista, la conosciamo, e si perfeziona ogni giorno nel mondo. Pensi per esempio all'idea all'idea bellissima che hanno avuto i tedeschi per il mondial del football, questa cosa del calcio, di organizzare un bordello gigante a Berlino, sì, per i calciatori, e di cui non si parla assolutamente in Italia, almeno o molto poco, e per il quale vorrei veramente che prestissimo le donne si alzino e facciano delle cose. Volevo dire che il destino, il cosiddetto destino biologico, e la naturalizzazione donna implica che si marchia per meglio sopprimere, per meglio cancellare. Un po' è stato il mio discorso oggi, il sigillo o il marchio di genere, personificato, naturalizzato nella presenza del seno, che ti fa essere o non essere donna. Certo che se si cancella, allora saremo forse meno donna, quindi bisogna subito rimpiazzarla. E questo di più della protesi, che non serve assolutamente a niente, né a far star bene se non nell'immaginario della dominazione eterosociale, non dico neanche maschile, non vale la pena, ti obbliga a confortarti, a conformarti al marchio di genere che è il tuo sesso, cioè il sesso precede naturalmente la genderizzazione, e perché la differenza dei sessi ti obbliga a essere accantonata nel tuo biologico anatomia, e per questo sono talmente in crisi. Quando hai un seno in meno te lo devono subito rimpiazzare. Quindi una lesbica che vuole uscire da questo sistema, prima di dire di no, deve concettualizzare, è vero che nel mio caso mi ha aiutato, anche se non c'era Audrey, perché avevo deciso, ma lei è arrivata e ha confermato che avevo deciso bene, ecco. Benissimo, noi abbiamo sentito dal tuo cellulare, dai vari richiami, che purtroppo siamo veramente in diritto d'arrivo, quindi ti ringraziamo per questa tua testimonianza, grazie infinite per essere stata presente a questo convegno che veramente ci ha dato molto, e quindi speriamo di rivederci al più presto. Grazie. Grazie anche a te, a voi, e per dirvi che mi piace molto l'idea che ci vediamo praticamente ogni anno. Il mese di maggio è normale vederci in un convegno sia a Roma che a Bologna, quindi vediamo l'anno prossimo cosa inventiamo, perché mi piace molto rispondervi. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Oh, adesso Rosina, che facciamo? Chi mandiamo? Non lo so, possiamo mandare Migi? Mandiamo questo Migi. Contributo che ci ha dato Migi, che ha tradotto varie poesie, non tutte perché ricordiamo sono oltre 300, ed è stato un incontro il suo veramente commovente, perché soprattutto quando ha letto Today is not a day, che è l'ultima poesia scritta da Audre Lorde. E c'era appunto la Owen che leggeva in inglese e sembrava veramente Audre Lorde, e lei che traduceva, e si è emozionata e ci ha emozionato tutte. Sentiamo come ci racconta la sua esperienza qui al convegno. A dopo. Pecoraro, detta Migi, una carissima amica tra l'altro, e Migi ha appena finito il suo intervento qui al convegno L'attualità del pensiero di Audre Lorde, il valore della differenza, organizzato da Fuoricampo, e così gentile da rilasciarci una breve intervista. Allora, Migi è un'attivista lesbofemminista, traduttrice di testi GLBTQ ed è un'artista non professionista. Nella trasmissione poi insomma comunque diremo alcune cose più approfondite, e adesso vogliamo chiedere a Migi come ha incontrato Audre Lorde. Allora, io ho conosciuto prima di tutto il lavoro di Audre Lorde attraverso le opere, diciamo, i saggi e le poesie di Adrienne Leach quando vivevo a Londra negli anni Ottanta. Rich parla di Audre Lorde in maniera veramente appassionata, facendo una critica ma costruttiva del suo lavoro, anche perché aveva un rapporto di amicizia profonda con Audre Lorde. E ho poi incontrato fisicamente Audre Lorde alla prima fiera internazionale del libro femminista, sempre a Londra nell'84, dove fu invitata appunto per leggere le sue poesie insieme ad Adrienne Leach. Ecco, quello è stato un momento veramente cruciale per me, perché diciamo la passione che lei metteva nel suo lavoro, il messaggio che trasmetteva, i discorsi che vertevano attorno appunto la sua condizione di essere nera, ma anche essere femminista e lesbica e attivista, madre, cioè lei parlava di tutti i suoi sé, tutte le sue soggettività, e cercava di trasmettere proprio la sua esperienza, il suo vissuto, e proprio per stimolare le altre donne a fare una riflessione su queste tematiche. E, la cosa che mi ha colpito di più è stato proprio il suo modo di leggere, la musicalità che metteva, la sua passione, il suo modo di muoversi, ma anche a volte la sua durezza, cioè lei non risparmiava niente, non ci risparmiava niente nel trasmettere il suo amore per le altre donne, ma anche i momenti di rabbia e di critica che lei ha espresso nei confronti specialmente delle femministe bianche che avevano organizzato appunto quella fiera, non preoccupandosi di invitare donne di colore a partecipare all'evento. Dunque Migi, oggi tu hai letto qui le poesie di Audre in controcanto, diciamo, con Angela Bowen. Possiamo dirlo, c'è stato un momento di commozione da parte tua, ci puoi spiegare perché? Sì, non è stato programmato sicuramente. Diciamo che un po' è stato perché io ho messo tanta energia, cioè credo proprio che gli scritti di Audre Lorde, specialmente per quanto la poesia, debbano essere tradotti per quanto possibile, perché è importante che in Italia si conosca il suo lavoro da vicino, e la poesia era comunque la parte forse più importante del suo percorso. E l'onore che è stato fatto a me e a tutte è di avere Angela Bowen qua a leggere la versione in inglese, averla accanto. E è stato veramente un momento particolare per me, molto, insomma, molto importante. E cosa è successo? È successo che l'ultima poesia che abbiamo letto era l'ultima poesia che Audre Lorde ha scritto. Audre Lorde ha lavorato fino all'ultimo giorno della sua vita, è morta nel 92, e la poesia che ho letto This is not the day, oggi non è il giorno, è stata scritta 2 mesi prima della sua morte. È stato tutto un insieme di cose, avere Angela Bowen che leggeva e che legge in maniera straordinaria, insomma non ho potuto frenare l'emotività. Era anche molto emozionante il fatto di veder scorrere dietro di voi, dietro a te Angela, le immagini di Audre e anche insomma, i frontespizi dei suoi libri, dei suoi scritti. Dunque, tradurre la prosa è già piuttosto complicato. Che cosa significa tradurre la poesia da una lingua straniera? Allora, premetto che non sono una traduttrice professionista, cioè, conosco l'inglese perché ho studiato tanti anni, ho vissuto tanti anni in Inghilterra. E tradurre la poesia in primo luogo per me è stato un atto di coraggio, perché tradurre la poesia di una persona della statura e della bravura e dell'intelligenza di Audre Lorde è stata una cosa che avrei, cioè ho sempre cercato di fare, ma è sempre una cosa, un'attività che ho ottenuto nel privato. E mi si è presentata l'occasione e ho pensato che sarebbe stato importante trasmettere i suoi testi, cioè recitarli anche, e tradurli è stato bellissimo, un'esperienza bellissima, perché tradurre Audre Lorde vuol dire farsi attraversare da Audre Lorde, farsi attraversare dai suoi messaggi, dalla sua poetica, e dalla sua passione e anche dalla sua rabbia. Difficile perché chiaramente ho dovuto fare una selezione, lei ha scritto più di 300 poesie, ho dovuto fare una selezione per quanto riguarda il discorso di trasportare alcuni concetti e comunque delle immagini che sono molto legate sia alla cultura americana e sia al discorso che lei fa storico sulle divinità, quindi lei fa sempre, molto spesso nelle sue poesie, una descrizione delle divinità africane, perché per lei è stato un punto focale del suo lavoro. E quindi ho dovuto, diciamo, per quanto riguarda alcune poesie, fare un'opera di smontaggio e di ricostruzione, in modo che potessero mantenere proprio il senso, lo spirito del messaggio che lei cercava di trasmettere. Però mi sono anche divertita, insomma è stata una bella esperienza e cercherò di continuarla. Tra l'altro voglio dire che stiamo prendendo accordi con altre donne che comunque hanno già fatto delle traduzioni sia dei saggi che delle poesie, per mettere insieme diciamo una collection, una piccola antologia delle poesie di Audre Lorde, e per il momento cercheremo magari di dare accesso a queste poesie via internet. Alcune si trovano già comunque sui vari siti e comunque io penso che sarà un lavoro da continuare, sarà anche uno stimolo per confrontarsi con chi sta facendo lo stesso lavoro di traduzione e capire come quale sia la modalità più giusta, più efficace per trasmettere i suoi messaggi e la sua opera. Perfetto, allora questo atto di coraggio di Migi, possiamo dire che il messaggio di Audre, uno dei messaggi di Audre è andato a segno, insomma, lei ci ha insegnato il coraggio, la rabbia, una serie di altre cose che dovrebbero attraversare tutto il movimento, comunque in genere tutte le donne. Migi, noi ti ringraziamo, sei stata molto gentile. Grazie a voi. E lo facciamo con molto affetto, grazie. Grazie a voi, grazie a tutte. Ciao. Ciao. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me. Rosina, Annalisa, sospiri. Sospiri? No, perché dobbiamo andare di corsa. È vero, il tempo è strettissimo. E tagliare pezzi Klein, insomma. È una tragedia. Però già che ci siamo, io direi che possiamo lasciarla in sottofondo, sì, e magari dire alcuni dei nostri appuntamenti prima di mandare l'ultima intervista della serata, sì, a Jennifer Abbott. Sì. E quindi io direi di cominciare subito con un evento. Intanto noi le finestre le dobbiamo lasciare aperte perché ci sono dei rumoracci. Questo è il bello della diretta. Direi di mandare subito un appuntamento che si terrà alla casa. Aspetta, prima che ci scordiamo, salutiamo Lucia e Monica da Prato, che ci hanno mandato gli sms carinissimi. Grazie della vostra almeno presenza. In tre ci sono, e salutiamo anche la nostra efficientissima altre... Caterina. Certo. Eh? Certamente Caterina, per essere sempre così presente, e direi di salutare anche le altre 7 ascoltatrici, sì, che mediamente ci ascoltano. No, dai. È una battutaccia terribile. Allora, il 26 maggio, quindi venerdì prossimo, mm-hmm, dalle ore 20 alle non si sa, così ad oltranza, nel giardino della Casa Internazionale delle Donne, in via San Francesco di Sales 1, in collaborazione con il CLR, Zora Neale Hurston e Bio e Te presentano Book Crossing and Art Gallery. Book Crossing and Wines, senti come pronuncio bene? Bravissimo. Cibo da leggere, cibo da mangiare. Sarà una serata per sole donne in festa, appunto nel giardino della casa, e si giocherà al Bibliomondo. E insieme si gusteranno letture, suoni e sapori. Quindi venite copiose e copione, portate un vostro libro se volete, potrete anche leggere le cose che voi avete scritto. Vi ricordiamo che l'ingresso, che prevede la prima consumazione e il buffet, è di 8 euro. Per le informazioni potete chiamare il numero 347 620 7940, oppure 340 3316 795. Ci saremo anche noi, quindi sì, sarà un'occasione per vederci. Se ci volete vedere. Se non ci volete vedere, portate gli occhiali scuri e ascoltateci il martedì. Altri appuntamenti, ecco, ci siamo presi un po' di pausa, però adesso a giugno stiamo proprio piene. Sì, abbiamo organizzato un sacco di cose per voi. Il 9 giugno alle ore 19 avremo appunto questa iniziativa, prendendo spunto da quella che è stata fatta durante il convegno, dal titolo Audre Lorde e nuovi soggetti migranti in Italia, esperienze a confronto. Lezione, ne parla Simonetta Spinelli. E tutto questo verrà fatto al Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B, da noi, quindi sì, presso la nostra sede, dalle 19 in poi. Altro appuntamento un po' molto più mondano, molto più ludico, mondano, con cui vi saluteremo, è la seconda edizione del Sappho Garden. Se vi ricordate, l'anno scorso andò benissimo, quest'anno la ripetiamo, prendete nota. Giovedì 22 giugno dalle... Giovedì. Sì, è un giovedì. Se fosse un venerdì. Non le salutiamo di giovedì quest'anno, prima dell'estate. Vi auguriamo buone vacanze, noi faremo altre cose intanto. Certo. E il programma dovrebbe prevede la proiezione del documentario Sara, fatto da Margherita Giacobino sulla scrittrice Sara Zanghi, che sarà ospite. E a seguire avremo questi giochi all'aperto a squadre, che l'altra volta ci divertimo un sacco, guarda. Assai. Ma troppo tanto. Le lesbiche che giocano sono bellissime, che poi non si accaniscono per niente. No, assolutamente. Delle signorinelle proprio. E a seguire avremo la nostra cena e a seguire ancora musica sotto le stelle, che bello. Bello, vi aspettiamo. Io non ci sarò. 9 giugno 22, Rosina sarà la prima a montare e smontare la roba. Certamente. Allora, l'ultimo appuntamento è a Bologna il 1 giugno, sarà presente Dorothy Allison, l'autrice di Trash Racconti, edito dal Dito e la Luna, e interverranno a questo incontro, a questa conferenza, Margherita Giacobino, che è una scrittrice che ha tradotto il libro di Dorothy Allison, e l'editrice Francesca Polo. E, basta. Direi che a questo punto sì, possiamo mandare l'ultima intervista della serata. Vi salutiamo, certo. Vi ricordiamo quindi, allora, venerdì questo al cortile della casa, poi abbiamo il 9 giugno presso il Centro Femminista Separatista e serata conclusiva il 22 giugno. Per qualunque cosa consultate sempre il sito www.clrbp.it. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo dell'attenzione, martedì prossimo ci ritroviamo qui. Certo. Forse non passa la sigla di chiusura perché siamo molto stretti di là, fremono per entrare. Ma sì, ma facciamo passare lo stesso. Baci a tutte, grazie. Baci da Rosina e da Annalisa. Ciao. Ciao, buonasera. Siamo in compagnia di Jennifer Ebod, che ha presentato venerdì scorso The Age of Each Other's Battles, e oltre a essere una regista che ha appunto scritto e diretto questo video su Audre Lorde, ha anche fatto da altri progetti molti programmi radio, ne parleremo dopo. La prima domanda per Jennifer è: come si è avvicinata, come ha incontrato Audre Lorde? How did you get to know how you met Audre Lorde? I met Audre Lorde in 1985 in Boston, Massachusetts, through my partner and lover, Angela Bowen, who's a black lesbian feminist. I was a radio producer for public radio at the time, and I asked Audrey if anybody had ever done a radio profile on her, and she said no one had done it. So I went to the public radio station and asked them if they would support me in my efforts to create a radio profile of the great black lesbian feminist poet Audre Lorde, and they said that I could do that. So I made a radio profile of Audre Lorde in 1987, and it played on public radio in 1988. Mm-hmm. Then in 1990, my partner Angela Bowen and her good friend Jackie Alexander, who is a Caribbean lesbian feminist scholar, decided to honor and celebrate Audre Lorde's life before she died, because she had been living with cancer for 12 years. Ho incontrato Audre Lorde attraverso la mia compagna Angela Bowen nell'85 a Boston, nel Massachusetts. Ero a quel tempo una produttrice per la radio pubblica di Boston e quindi ho chiesto ad Audre Lorde se qualcuno avesse mai fatto un profilo radio per lei e lei, avendomi detto di no, ha chiesto il permesso alla mia radio di fare appunto questo profilo, che è stato creato nel 1987 ed è andato in onda nell'88. Poi nel 90 Angela Bowen e la sua amica Jackie Alexander hanno deciso di fare qualcosa per celebrare l'opera di questa grande poetessa prima della sua morte, perché le era stato diagnosticato il cancro. Cosa vi ha colpito di Audre? What did impress you most about Audre? In few words it's difficult to say. In poche parole è impossibile. You remind me of myself, because when I interviewed Audre, I would ask her questions like you ask me, which is, what is your favorite poem? What is the thing that you are most proud of? And she would say, you cannot reduce me to my essence. Okay. Mi ricordo di me quando lavoravo alla radio e quando ho intervistato Audre Lorde, infatti le facevo domande del tipo qual è la tua poesia preferita, oppure non lo so, qual è la cosa di cui sei più orgogliosa, e lei mi diceva, non mi puoi ridurre così a poche parole. In poche parole, una domanda stupida. No. So, yes, I felt stupid sometimes when I was with Audre Lorde, but it was a learning experience for me to understand that I could ask the questions differently. For example, what poems do you find, she would say to me, if you ask me the question, which poems are most important to me right now, I could answer you. You know, because her poems meant something to her all the time, but the ones that she most recently wrote are the ones that are on her mind, you know, the most. And so she would rephrase the question. Now, you asked me what most impressed me about Audre Lorde, and I would say that I can't answer it that way, but I can say that working with Audre Lorde was a challenge, because she demanded honesty and she demanded a certain intensity in the conversation that required you to use your feelings and your intelligence and your sense carefully and very thoughtfully. So she required you to respect the moment of that interview with the person, and to take it, any relationship where you were exchanging anything, very seriously, and with the hope that something would come of it, that some change or something would come of it. Because for her to take the energy, because remember, she had been just diagnosed with liver cancer, for her to take the energy to talk to me, she was saying to me, don't fritter this away, you know, don't just, this is serious, I take the time to speak with you, I have the energy, I want something to come of this. Anch'io quando intervistavo Audre Lorde facevo delle domande abbastanza stupide, però questo mi ha insegnato a riformulare le domande. Ad esempio, quando io le chiedevo qual è la tua poesia preferita, lei mi diceva, potresti chiedermi qual è la poesia più importante adesso per me, perché naturalmente tutte erano importanti per lei, ma in un certo momento ce n'erano alcune che le restavano più in mente. Quindi se tu mi chiedi cosa mi ha colpito di più di Audre Lorde, io non ti posso rispondere, però ti posso dire che lavorare con lei è stata come una sfida. Lei richiedeva da me onestà, una conversazione molto intensa e di utilizzare attentamente la mia intelligenza e le mie risorse, e voleva che io rispettassi il momento in cui veniva svolta quell'intervista e prenderlo sul serio, perché siccome lei era comunque malata, era importante che si dedicasse a me per quell'intervista, e voleva che questo servisse a qualcosa, servisse a cambiare le cose. E c'è un'altra domanda, non so quanto studi, che appunto lei cura, ha curato due progetti di radio, radiofonici. Uno è di Jennifer Abbott Show e l'altro è di Liberation of Lydia. La pensate, la prima soppopera femminista. E, se ci vuol dire qualcosa di questo progetto, visto che anche noi facciamo radio, quanto è faticoso portare avanti un progetto di, per tanti anni. Since we work in the radio as you did, we would like to know something about your experience in the Jennifer Abbott Show and also the Liberation of Lydia, how you worked and then what it was the experience like. Mm. Well, I first started out in community radio, like you. I think you do community, what we would put a community free, in no money, only lots and lots and lots and lots of time and energy and love and no money. I love doing community radio, and okay. So then I went into commercial radio, very, very few women in the early 80s on the air, in commercial radio, when I went on the air. And I did a talk show, and I was a feminist, and I was out on the air as a feminist. I'm Jewish, I was out on the air as I was Jewish, but I was not out on the air as a lesbian. And I got shit for being out as a Jew. I mean, there was anti-Semitism. And I wish, but in the 1980s, there was no gay or lesbian movement. Mm-hmm. So I was the unprotected to come out as a lesbian. But I did a talk show on topics, all kinds of topics, you know, not everything, music and politics and, you know, everything, nothing to be limited by from anything. From our point of view, yeah. From your point of view. Yeah, from my point of view, but everything, and I did everything from my point of view, but I had people on from all walks of life, and I asked them interesting questions, yeah, and I talked to people over the phone. You know, and I did a program called so, yeah. Ho cominciato lavorando in una radio locale, come penso facciate anche voi, ricevendo nessuno stipendio, mettevo soltanto molto del mio tempo, molto delle energie, ma non ricevevo niente in cambio e mi è piaciuto molto questo lavoro. Poi ho cominciato a lavorare invece per una radio commerciale negli anni 80 e a quel tempo c'erano pochissime donne che lavoravano alla radio. A quel tempo era noto che io ero ebrea e che ero femminista, però non potevo dichiararmi come lesbica perché in quel momento non c'era nessun movimento per i diritti dei gay e delle lesbiche e quindi era molto difficile, per me pericoloso. In quel programma parlavo di tutto, di musica, di qualsiasi argomento e ricevevo le telefonate degli ascoltatori, facevo domande interessanti. And then in public radio, and I did public radio, I did radio documentaries, and I love doing that. And in the 1970 is when we did The Liberation of Lydia. The Liberation of Lydia! Yeah, this is it. And I was Lydia. Ah, okay. And there were 5-minute episodes, 14, we did 14 5-minute episodes with the community. And we did, you know, sound effects and radio and everything. And it was about Lydia, who was a married woman, who was going to the consciousness-raising meetings, and her husband was getting upset because she wasn't making the tuna fish casserole. And she would go and talk to her mother about these things, and her mother would say, well, you need to belong in the home, and she would talk to her sister, and then all kinds of the progression of Lydia to consciousness. Until the point where she had to think about whether she was going to have an abortion because she was pregnant. And they did. She went to an abortion counselor, and they did abortion counseling on the radio in the guise of the soap opera. Mentre quando ho lavorato per la radio pubblica ho fatto molti documentari, mi piaceva moltissimo. E invece negli anni 70 abbiamo fatto appunto questa soap opera The Liberation of Lydia, erano 14 episodi di 5 minuti ognuno e noi facevamo tutto, anche gli effetti sonori. E si parlava di questa Lidia, che era una donna sposata e che andava a tutti questi incontri, e mentre il marito non voleva, voleva che stesse a casa a cucinare, ovviamente, così le dicevano anche la madre e le sorelle. E è tutto questo percorso di presa di coscienza di questa Lidia, fino a che a un momento deve decidere se abortire, perché è rimasta incinta e va da un medico, insomma, che la può consigliare, e questo avviene anche nell'episodio, appunto, radiofonico. You wrote an happy end. So Lidia left the home or not? Well, it became lesbian. It stopped after 14 episodes. Oh. It was a lot of work, and people were leaving town, you know, because it was a community thing. So we stopped, and it stopped at whether Lidia was going to have an abortion or not. Nobody ever knew, but it stopped there. Nessuno ha mai saputo in realtà se Lidia ha abortito o no, perché infatti abbiamo avuto solo 14 episodi, poi abbiamo smesso perché comunque ci richiedeva troppo lavoro. So the last question. Grazie della pazienza, grazie a Veronica che sta traducendo per noi. Have you ever been in Rome? No. We're about to, Angela and I, we're going to go to Rome. You have suggestions for what we should do in Rome? No, siccome noi vorremmo proiettare il suo film, se può lasciarci con una promessa che quando è di ritorno in Italia, se l'invitiamo, se può venire a fare un incontro a Roma, alla Casa Internazionale delle Donne. We would like to show you your video in Rome. So when you come back to Italy, or we can invite you. Oh, yeah. Can we invite you? Because in Rome, I think that nobody knows your works. Yeah. So, siccome per molte donne, ti parlo io in inglese e tu traduci in italiano. Well, molte donne hanno difficoltà a viaggiare, a spostarsi in Italia. Sarebbe bello far conoscere anche al centro-sud questo suo lavoro. Well, many women, it's difficult to travel around Italy, so it would be good to show your video in central South Italy. Yeah, we are going to be in Italy for a while, mm-hmm. and so in a few days we're going to be going to Rome, mm-hmm. for a few days, but we would love to come back to Italy. And to show the video and talk about Audre Lorde in Rome, mm-hmm. and I also have a new video called "Look Us in the Eye: The Old Women's Project," and it's about ageism and activism. Staremo in Italia per un po' di tempo. Adesso, infatti, fra pochi giorni andremo a Roma per qualche giorno, però sicuramente torneremo. Vorrei fare vedere il mio video anche a Roma. E anche il mio nuovo video Look Us in the Eye. Grazie mille, we wait you very soon. Grazie a Veronica e a dopo per un'altra intervista. Long live feminist radio and support feminist art and culture, give these women money. Supportate il movimento femminista e la radio femminista e date i fondi per questi progetti. Vi ho ascoltato bene, grazie, grazie ancora. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.